Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo da un lato di Made in Italy, ma dall'altro di Europa, perché da un lato oggi ci sono dati e notizie che arrivano dall'Europa in una settimana che vedrà anche il vertice Ecofin domani e venerdì, il vertice dei ministri economico-finanziari sull'Europa. La presidenza olandese dell'Unione ha preparato un rapporto di 4 pagine, tutto dedicato a una possibile semplificazione del patto di stabilità e di crescita. Però la proposta del governo olandese potrebbe trovare anche una sponda con l'Italia e a sua volta essere una sponda per l'Italia, visto che noi chiediamo maggiori margini di manovra nella politica economica, sui migranti in primo luogo, sulle spese per i flussi migratori, ma non solo. Il quadro europeo di bilancio è diventato piuttosto complesso a causa del continuo aggiustamento delle regole. Questa è la relazione che verrà discussa appunto, in realtà è venerdì e sabato, non è giovedì e venerdì, è venerdì e sabato nella riunione informale dei ministri delle finanze europee. Ce ne occuperemo perché il nostro inviato a Bruxelles oggi, Sergio Nava, ha raggiunto da un lato il vicepresidente della Commissione europea, nonché responsabile per l'euro, Valdis Dombrovskis, e ha parlato con il vicepresidente sia dello scenario macroeconomico sia della richiesta di flessibilità italiana. Parleremo di Europa anche per un altro motivo, come già vi raccontano da ora di pranzo i nostri GR24, il nuovo attacco dell'antitrust europeo contro Google. La Commissione europea ha formalizzato le accuse contro il colosso del web, lo ha accusato chiaramente di abuso, chiaramente perché è l'accusa tipica che arriva dalla Commissione europea in tema di antitrust, di abuso di posizione dominante per le restrizioni imposte ai produttori di smartphone e tablet Android e agli operatori di telefonia mobile, a cui impone, questa è l'accusa, di preinstallare sue app come Google Search, e violando di fatto la libera concorrenza. Ha attuato, questa l'accusa, una strategia sugli apparecchi mobili per conservare e rafforzare il suo dominio nel campo della ricerca internet, violando le regole europee. Era esattamente un anno fa, il 15 aprile per la precisione, quando la commissaria europea Margrethe Vestager mise formalmente Google sotto accusa appunto per abuso di posizione dominante, che è una delle violazioni più gravi sulla norma europea della concorrenza. Qualcuno ricorderà quando al tempo commissario Mario Monti arrivò quella mega multa a Microsoft, 800 milioni di euro al tempo e 1,2 miliardi a Intel. Se non si dovesse arrivare a un'intesa, ma ne parleremo, Google potrebbe dover far fronte a una sanzione che potrebbe arrivare a 7 miliardi e mezzo di dollari, parliamo del 10% di quello che è il fatturato annuale di Google. Anche di questo parleremo nella prima parte. Poi invece i temi di casa nostra, la borsa e di nuovo la Popolare di Vicenza. Perché? Perché oggi il Fondo Atlante, ossia il fondo che il governo ha lanciato, anche se la stragrande maggioranza del capitale è privato, che deve aiutare le banche in difficoltà a fare gli aumenti di capitale garantendo l'inoptato e a scorporare i crediti non più esigibili garantendo quelli di peggiore qualità, in modo che non vengano svenduti ai cosiddetti fondi avvoltoio. Dicevo, il Fondo Atlante è subentrato a Unicredit nella garanzia dell'aumento di capitale. Perché questo è importante? Perché oggi dallo stesso Fondo Atlante si è saputo, o meglio, lo ha reso noto la Banca Popolare di Vicenza su richiesta della Consob, che il Fondo Atlante comprerà le azioni della Pop Vicenza non sottoscritte, quindi l'inoptato, nell'ambito dell'aumento di capitale da 1,5 miliardi al valore più basso, al minimo, ossia 0,1 euro per azione. Cosa è successo? Ieri la Popolare di Vicenza, ne abbiamo parlato, ha diffuso la forchetta cosiddetta a cui opererà l'aumento di capitale tra 0,1 e 3 euro, una forchetta amplissima, un forchettone. Oggi il Fondo Atlante dice: attenzione, se noi dobbiamo garantire la parte di aumento di capitale che non verrà sottoscritta, la garantiamo a quel livello di prezzo. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che a questo punto, se fa così il Fondo Atlante, lo ha detto lo stesso numero uno della Popolare di Vicenza, Francesco Iorio, se Atlante userà quel livello di prezzo, quello sarà il livello di riferimento per tutti quelli che vorranno sottoscrivere l'aumento di capitale, con la conseguenza che i 120.000 azionisti che avevano le azioni a 62 euro, poi scese dall'estate 2014 all'aprile 2015 a 48 euro, scusatemi, da 62 euro scese a 48 euro nell'estate del 2014, poi scese a 6,3 euro nell'aprile verso febbraio 2016, adesso a 10 centesimi, vuol dire che praticamente il loro valore è zero, già avevano perso il 90% dell'investimento, investimento spesso sappiamo, secondo le accuse, forzato, addirittura si è arrivati a prestare soldi a correntisti affinché comprassero azioni, ma soprattutto obbligare, tra virgolette, o spingere i correntisti, che, se volevano avere un mutuo o quant'altro, a comprare le azioni a 62 euro e mezzo. Però la cosa che fa impressione, perché chi ricordi io, forse con Lehman Brothers, ma lì fallì la banca, forse con Royal Bank of Scotland, ma lì appunto venne nazionalizzata la banca. A mia memoria non è mai successo di vedere che un tracollo bancario di quella che prima del 2014 era ancora la terza, quarta banca, se la giocava, del paese, vede sostanzialmente il valore di tutta la banca, se venisse scelta la forchetta di 0,1 euro per azione, come il prezzo di 0,1 euro per azione come aumento di capitale, ebbene tutta la banca varrebbe meno di quanto hanno beccato come stipendi e bonus i consiglieri, i sindaci e gli ex vertici nel 2015. Ok, quindi vuol dire che la banca, sportelli, dipendenti e quant'altro, 700 sportelli, 5.500 dipendenti, 1.300.000 clienti, questi i dati più recenti che abbiamo, vale meno dei bonus e degli stipendi dati a chi questa banca l'ha distrutta. Sorato, Zonin e tutta la compagnia cantante. Non me ne frega nulla delle critiche che mi arrivano da Vicenza, lo dico tranquillamente, non mi telefonate, non mi scrivete, perché tanto voglio dire, abbiamo avuto massimo rispetto per i vertici quando parlavano, perché non era scoperto nessuno scandalo, e non ne abbiamo alcuno adesso per la situazione drammatica in cui hanno lasciato decine di migliaia di famiglie, distrutto valore vero, 5 miliardi di risparmi già bruciati, con questo aumenteranno, perché chiaramente i 5 miliardi era il conto con l'azione a 6,30 euro, e vale anche per Veneto Banca, perché poi è chiaro che questa operazione tra poco scatterà l'aumento di capitale per Veneto Banca, 1 miliardo, se questo è l'andazzo puoi capire quanto bene si sentono i correntisti, gli azionisti, scusatemi, di Veneto Banca, per cui anche di questo parleremo, ma questa immagine a mio avviso spiega più di tante cose: i bonus, gli stipendi dati ai sindaci che non hanno sindacato, perché insomma se ne accorge la BCE di quanto sta capitando nel 2014, anzi e con poi la rettifica del prezzo nel 2015, agli amministratori delegati che non hanno gestito, anzi hanno distrutto valore, ebbene gli stipendi a loro, compreso quello che si è dato lo stesso Iorio appena arrivato, tutto bene, per carità, però insomma intanto risani la banca, poi vediamo anche i bonus, ma poi li raccontiamo questi bonus e sti incentivi. Tutto questo vale più della banca stessa. Io non so, non era ancora successo di vedere una cosa del genere. Andiamo con le notizie in breve. Allora, intanto iniziamo con la borsa, più 0,90% Milano, 18.600 punti, più 0,40 Parigi, più 0,50 Francoforte, meno 0,20 Londra e più 0,20 il Dow Jones in questo momento. Monte dei Paschi bene, più 5,60%, Unicredit più 4,20, UbiBanca più 2,90, Mediobanca più 2,90, Pop Emilia Romagna più 2,5%. Intesa San Paolo più 90%. Il fronte opposto vede invece il titolo del lusso oggi cedere, poi ne parleremo: Moncler meno 2,40%, Ferragamo meno 2,30%, poi ST Microelectronics perde l'1,50%, ma Atlantia perde l'1,20%, Hughes Net-a-Porter meno 1,1%. Allora, io so che le valutazioni su dove è arrivata Piazza Affari lasciano il tempo che trovano. Faccio solo notare che ha recuperato il terreno perso nelle ultime settimane, è ai massimi, per così dire, dal 22 marzo, mentre Francoforte invece ha raggiunto i massimi dell'anno, così come Parigi. È chiaro che Milano si comporta diversamente perché è zavorrata, tra virgolette, dai titoli bancari, e con quello che è successo, con le incertezze che ci sono, ogni volta che aumentano le incertezze perdono tanto i titoli bancari, che pesano molto sul nostro indice. E quindi, mentre Francoforte appunto tocca i massimi dell'anno, lo fa anche Parigi, Milano è ancora indietro ed è appunto ai livelli del 22 marzo, ha recuperato, diciamo, quest'ultimo mese. Allora, andiamo avanti, poi alcune correzioni. Sì, abbiamo detto aprile 2015 da 62,50 euro a 48, forse ho fatto, se c'è un rifuso mio chiedo venia, cioè il prezzo fu portato a 62,50 euro dalla Pop Vicenza nel 2014, che fu una follia, anche perché i vertici di allora mentirono su tutto, non posso credere che non sapessero qual era la condizione reale delle sofferenze della banca. Quindi dei crediti non più esigibili, ma soprattutto garantirono, io non so se riusciamo a riprendere Zonin, dicevamo che garantiva che, insomma, la banca è solida, e quindi andavano a convincere allo sportello a sottoscrivere titoli azionari non quotati in borsa, perché, ripeto, il problema lo fanno anche altre banche, ma se sono quotate tu poi hai la possibilità ogni giorno, ogni ora di venderlo, ci perdi per carità magari, ma lo vendi. Invece lì il problema è che quando cercano di vendere, quando capirono gli azionisti che c'erano dei problemi sulla propria Vicenza, quindi dal 2014 al 2015 andavano allo sportello e non trovavano nessun compratore, e poi gli scende a 48 euro e anche lì pochi compratori, finché non va a 6,30 euro, e a quel punto arriva il diritto di recesso, se uno vuole, ma ormai hai già perso il 90%. Questo è il problema. So che anche altre banche hanno la pratica di dire, vabbè, se vuoi il mutuo magari diventa azionista, però se il titolo è quotato, a me la cosa non è che sorprenda molto, lo compri, diventi azionista, poi se vedi che cosa ormai lo vendi, magari ci perdi qualcosa, ma puoi venderlo quando vuoi o puoi tenerlo. Allora, basta rompere le scatole sulla Popolare di Vicenza. No, non sono d'accordo, perché abbiamo fatto intere puntate sulle quattro banche popolari che avevano un valore di danno minore, erano le cavie per il bail-in, e non vedo perché non dovrei parlare della Popolare di Vicenza, mi dica perché no. Parliamo anche delle altre, quali? Di Veneto Banca? Vabbè, le notizie in breve. Per quello che riguarda il Brasile, disoccupazione supera il 10%, senza lavoro 10.400.000 brasiliani, questo l'ultimo trimestre. Mentre l'UNICEF, nel suo rapporto sulla Grecia, fa notare come siano drammaticamente peggiorate le condizioni dei bambini in Grecia. La povertà infantile è aumentata dal 95 al 2015 del 6,3% in termini assoluti, cioè ci sono in un paese così piccolo 122.000 bambini in più che sono diventati poveri. Nel 2014 la povertà infantile era al 25% del totale dei bambini, e coinvolgeva 424.000 bambini in Grecia. La spesa mensile per i consumi per una famiglia con due bambini è stata nel 2014 di 1.500 euro, nel 2010 era di 2.350 euro. Allora, è vero che prima i greci vivevano di sopra le loro possibilità, diciamo che non voglio tornare sui temi dell'approccio tedesco alla Grecia, diciamo che nel frattempo li abbiamo affamati senza trovare una vera soluzione per quel paese. Comunque, ancora continua l'UNICEF, il PIL greco è diminuito del 25% dal 2008 ad oggi, la disoccupazione è aumentata al 27% e al 50% tra i giovani. E sempre di Grecia, dovrebbe parlare l'Eurogruppo venerdì ad Amsterdam, se non vi fossero comunque progressi sufficienti, vi dovrà essere un altro incontro straordinario, da quello che si capisce da fonti europee, la prossima settimana. Poi veniamo ai temi europei, di cui parleremo anche tra breve, però oggi ha parlato il vice cancelliere tedesco Sigmar Gabriel a Berlino. Ha detto guardate che Gabriel fa una critica a se stessa, cioè il problema non è la Banca Centrale Europea o non è, e non è Mario Draghi, ma la mancanza di disponibilità a rinunciare a concentrarsi soltanto sul risparmio, e quindi è l'eccesso di austerità, lo dice il vice cancelliere tedesco, chiaro che ha un altro approccio rispetto a Schäuble e anche alla Merkel. Non invito a cassare il patto di stabilità e crescita, invito a comprenderlo, non invito a rinunciare alle riforme, ma le riforme non bastano. Oh, lo dice Gabriel, eh? Senza investimenti le riforme non bastano. Cioè tu puoi fare tutte le riforme che vuoi, ma se non ripartono un po' di investimenti pubblici, produttivi, non sprechi, investimenti infrastrutturali, controllati da Bruxelles, dare la possibilità sugli investimenti di avere dei margini, si chiamava il deficit buono e il deficit cattivo una volta, il deficit cattivo è sono gli sprechi, è la spesa, il deficit buono sono gli investimenti. Se non tu puoi fare tutte le riforme che vuoi del mercato del lavoro, delle pensioni, ma tanto se non riparte il PIL non regge il gioco, lo dice il vice cancelliere tedesco Sigmar Gabriel, che aggiunge: è sbagliato ritenere che la Banca Centrale Europea sia il cuore dei problemi, ma è anche sbagliato che ritenere che non si possa inquadrarla o criticarla. È giunta ai suoi limiti, nel senso che, aggiunge Gabriel, stampare i soldi non è una soluzione sostenibile. Tu stampi i soldi se qualcuno li prende, come è successo negli Stati Uniti. La Fed stampava soldi, ma il mercato, o meglio gli investimenti, poi li assorbivano. Ma se tu stampi i soldi e non ci sono investimenti, perché non ci sono investimenti in primo luogo pubblici e non partono neanche quelli privati, questa massa di liquidità resta in giro, crea per carità ottime condizioni sui titoli di Stato per chi deve metterli, come l'Italia, per chi ha un grosso debito, ma non fa ripartire l'economia, fa risparmiare un po' di più l'Italia, ma non fa ripartire l'economia. Comunque la Germania ha tagliato le sue stime di crescita per il 2017 all'1,5% contro l'1,8%, mentre quest'anno dovrebbe fare l'1,7%. Allora, ancora due notizie sulle pensioni che ieri sono state anche in questo programma, nei GR, oggetto di grande approfondimento, vista insomma le varie dichiarazioni che arrivavano un po' dall'INPS, un po' da Padoan. Allora, oggi il ministro Padoan torna sul tema fiscale, in realtà dice: le prossime leggi di bilancio il governo valuterà le possibilità di agire sull'IRPEF in base agli spazi finanziari disponibili nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, quindi vedremo se abbiamo i soldi. Pronto l'invio delle 150.000 buste arancioni, ma quanto ci mettono a partire? Continuiamo a darla sta notizia. L'invio, l'INPS ha preparato le lettere, meno male che lo fa, perché ieri abbiamo rilevato che Boeri sembra parlare in maniera distonica con il governo, cioè sembra non esserci grande sintonia. Detto questo, nessuno, lo dico che mi sta scrivendo, nessuno rimpiange Mastrapasqua, con massimo rispetto, uomo dalle mille cariche, ma soprattutto uomo che le buste arancioni le aveva bloccate, che andò in disaccordo subito con la Fornero, per cui nessuno, meno male che arrivano, dico che partano, stanno partendo in queste ore le prime 150.000 buste arancioni. L'invio è casuale, non è una battuta, cioè dal punto di vista delle anagrafiche e di chi le recapiterà non c'è un criterio. Oggi migliaia di lavoratori metalmeccanici in piazza nello sciopero generale per protestare per il rinnovo del contratto nazionale. Il leader della FIOM e quindi dei metalmeccanici della CGIL, Maurizio Landini, nel corteo di Milano ha spiegato che si tratta di un chiaro diritto, ha sollecitato Federmeccanica a non assumersi la responsabilità di uno scontro, questo, e poi ha aggiunto: questo è il momento per il paese di far ripartire l'economia. Risponde Federmeccanica: la nostra non è solo una proposta di rinnovo, ma di rinnovamento. Si tratta di un passaggio culturale epocale, passare da un concetto di costo a quello di investimento sulla persona. Chiede Federmeccanica che il contratto nazionale abbia un ruolo regolatorio di garanzia di tutela, mentre il contratto aziendale debba prevedere normative in grado di cogliere le esigenze specifiche e distribuire la ricchezza laddove prodotta. La nostra proposta prevede di garantire al 100% i dipendenti per la copertura sanitaria estesa anche ai loro familiari a totale carico delle aziende attraverso il fondo Meta Salute, che coprirà anche i lavoratori in cassa integrazione e mobilità, e poi anche il potenziamento della previdenza complementare per i metalmeccanici e della formazione continua al 100%. Ma il tema, lo scontro è tra Federmeccanica, che vuole dare maggior spazio ai contratti di cosiddetto secondo livello, cioè il contratto nazionale fissa regole e la cornice, e poi invece il contratto aziendale va a vedere come va la singola azienda e quindi margini anche per premi di produttività e quant'altro. È un tema che invece trova l'ostilità in primo luogo della CGIL e della FIOM. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Prima di arrivare al primo tema, i 100 secondi oggi dedicati a una notizia che molti di voi ci hanno segnalato, avete ragione, ne abbiamo accennato qualche giorno fa, ossia la Germania, che sarà un caso, tutto quello che vuoi, però stranamente conia, unico paese nell'area euro, una moneta da 5 euro. Tu dici, chi se ne frega? Sì, ho capito, la coniata la Bundesbank. Qualcuno, i più maliziosi, ci hanno voluto vedere un tentativo di, diciamo, di doppia moneta, così, un primo tentativo di avere una moneta euro coniata però solo dalla Bundesbank. A 5, vale 5 euro, e tra l'altro i collezionisti l'hanno già acquistata, ha un bordo blu, se ho ben visto, se ben ricordo la foto. I 100 secondi oggi sono a cura di Alessandro Paterotti, vice direttore del Sole 24 Ore, e ricordo che sono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Paterotti. Se gli italiani rimpiangono la lira, l'amore dei tedeschi per il loro vecchio marco sembra essere tornato più forte che mai. Non che l'euro non abbia aiutato l'economia e le famiglie tedesche più che in ogni altra nazione europea, ma il legame emotivo e le suggestioni di potenza che il vecchio Deutschmark è ancora in grado di suscitare in 80 milioni di tedeschi ricordano a tutti che in condizioni difficili sia ormai l'Europa. È bastato infatti rimettere in circolo tra ieri e oggi una riedizione commemorativa della moneta da 5 marchi, riprodotta su una moneta da 5 euro, per scatenare una vera e propria corsa in banca per acquistarne una. Anche oggi file di oltre un'ora davanti alla sede della banca centrale tedesca, la Bundesbank di Berlino, dove nelle ultime 24 ore sono state viste in coda diverse migliaia di persone. Il governo ha coniato più di 2 milioni di pezzi, di cui 250.000 in edizione limitata per collezionisti. Poiché la Bundesbank ne dà una a persona, sui siti online il prezzo per la moneta simbolo della Grande Germania è già passato da 5 a 250 euro. Che dire? Certamente che dietro la nostalgia sui 5 marchi emerge la grande difficoltà con cui i tedeschi si confrontano con la pressione internazionale contro le loro politiche di austerity e di rigore contabile che agli occhi del resto d'Europa hanno ormai accentuato la dipendenza dell'eurozona dalla Germania e danneggiato gravemente le economie dei paesi più deboli come l'Italia, la Spagna e soprattutto la Grecia. Tornare al marco, insomma, è per i tedeschi non un ritorno al futuro come vorrebbero per se stessi tanti altri cittadini europei che reclamano autonomia per uscire dalla crisi, ma un ritorno a un passato in cui le altre monete europee si inginocchiavano alla potenza del marco. In questi giorni di riunioni della BCE per sostenere a suon di miliardi le banche europee, i banchieri al tavolo di Draghi farebbero bene a tenere conto del messaggio che viene dalle code di Berlino. Il disagio di questa situazione cresce e il malessere dello stallo economico, politico e finanziario riguarda ormai tutti. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, 349, dicevo, 238-6666 per sms e whatsapp. La borsa ha chiuso più 1,22% sui massimi appunto da un mese, 18.670 punti. Andiamo sul metro pubblicità, poi raccontiamo anche questa edizione del Cibus, perché parliamo anche di cose positive, e in questo paese ce ne sono di cose positive, di aziende positive, di comparti, comparto alimentare, insomma veniamo dal Vinitaly prima, poi il Salone del Mobile e... andiamo avanti nel raccontare anche il Made in Italy che ce la fa, e poi parliamo invece di Popolare di Vicenza e di quello che vorrà dire sta cosa per, anche per Veneto Banca. Confermo che prima del crollo ci sono stati momenti in cui la Popolare di Vicenza per capitalizzazione di borsa era la terza banca per capitalizzazione di borsa, era la terza banca del paese, poi lasciamo stare se poi fosse la quarta o la quinta in altri momenti, ma questo per far capire la grandezza. E confermo che Zonin voleva comprarsi la Popolare Etruria e insomma la Banca d'Italia spingeva per questa cosa. Pensate che nozze, mamma mia. Vabbè, dai, metto meglio, se no. Focus Economia. Di 17:38 minuti di nuovo in diretta. Allora, prima di arrivare alla multa possibile, non certa, ci mancherebbe, per Google, ma il commissario Vestager va avanti, e poi ai temi europei e alla parola di Vicenza, vorrei farvi ascoltare brevemente, molto brevemente, i dati emersi oggi nella presentazione dell'appuntamento più importante per il settore agroalimentare italiano, ossia Cibus. Il settore agroalimentare vuol dire complessivamente 132 miliardi di euro per questo paese, che per il vuol dire per il terzo anno consecutivo che va sopra i 130 miliardi. Siamo all'11,5% del PIL italiano, con 385.000 addetti, ed è uno dei pochi settori in cui dall'inizio della crisi sono aumentati e sono saliti di circa il 2,5%. Questo grazie a un export che ha continuato a tirare, 30 miliardi quasi l'anno scorso, 29 miliardi, più 7% sul 2014, con praticamente un export che ormai vale un quarto, tra un quarto e un quinto dell'intera produzione agroalimentare italiana. Negli Stati Uniti abbiamo fatto più 20%, ma chiaramente in Russia per i dazi abbiamo fatto meno 33%. Pensate che nel 2013, l'ultimo anno prima delle sanzioni, facciamo più 24% di export in Russia. Comunque, altri mercati in cui il nostro export agroalimentare è cresciuto: Arabia Saudita più 40, Emirati Arabi più 29, Cina più 23, Thailandia più 21, Bulgaria più 20, Ungheria più 20, Hong Kong più 16, Sudafrica più 12, Israele più 12. Di questo hanno parlato oggi, insomma, i riferimenti dell'edizione annuale di Cibus. Iniziamo da Luigi Scordamaglia, presidente di Federalimentare, che anche ricorda la vicinanza che questo Cibus ha con l'Expo. Lo fa al microfono il nostro Adriano Palazzolo. L'effetto Expo principale è un effetto strutturale, cioè Expo ha spiegato al mondo che non c'è confronto nella qualità, nella sicurezza del food and beverage italiano. Questo ha già contribuito ovviamente ad aumentare l'attenzione, la curiosità e la richiesta di prodotti italiani. Expo è finito e si è svolto a metà del 2015, i primi effetti sono stati nel 2015, gli effetti strutturali ce li aspettiamo in tutti gli anni a venire. La situazione è di conferma di un trend estremamente positivo per quanto riguarda l'esportazione. 2015 ha rappresentato un record, abbiamo buone aspettative anche nel 2016, mentre quello che bisogna fare è cercare in ogni modo di stimolare i consumi sul mercato interno, che ancora non hanno segnato il vero giro di boa. I 50 miliardi di export per il 2020 sono un traguardo raggiungibile? Se continuiamo a crescere come stiamo facendo, ad un tasso del 7% all'anno, sono assolutamente raggiungibili. Bisogna ovviamente continuare lo sforzo che stiamo facendo, sia insieme al governo come sostegno all'esportazione, sia come aziende, crescere sempre di più, crescere anche nel proprio interno, aggregarsi e aumentare le proprie dimensioni. Credo che ci voglia l'applicazione di regole rigide alle importazioni da paesi terzi. Bisogna riuscire ad imporre ai paesi terzi che esportano verso l'Europa le stesse regole che valgono per i produttori comunitari, e questo ad oggi non si riesce ancora a fare al 100%. Ma insomma, come hanno fatto gli imprenditori del settore a non risentire, a superare la crisi soprattutto? Beh, lo ha spiegato l'amministratore legato alle Fiere di Parma, Antonio Celli, sempre al microfono del nostro Adriano Palazzolo. I nostri imprenditori hanno superato la crisi con un percorso di sviluppo inaspettato sui mercati esteri, e Cibus ha fatto lo stesso negli ultimi 6 anni. Abbiamo triplicato i visitatori esteri, abbiamo cambiato completamente il nostro approccio fieristico, andando noi all'estero a prenderli anziché aspettarli qui, e abbiamo quindi avuto una crescita perfettamente sincrona con il livello di competenza del nostro sistema industriale alimentare italiano. È un Cibus importante anche perché arriva dopo l'anno di Expo. È un Cibus importante perché arriva dopo l'anno di Expo, quindi ha dei numeri molto importanti, ha un'inerzia diversa dal passato. Abbiamo capito che facendo un evento importante anche negli anni dispari, e quindi avendo una cadenza annuale, le nostre sensibilità sul mercato, sulla community, sulle prospettive, sui contenuti che una fiera deve avere, aumentano in maniera esponenziale. Noi siamo sold out ormai da diversi mesi, abbiamo 3.000 espositori. La cosa sorprendente è che siamo sold out pur avendo solo aziende italiane. For making it. Allora, sì, vedo che alcuni scrivono: guardi che in Russia i prodotti agroalimentari sotto embargo arrivano comunque con triangolazioni, lo sappiamo, anche via Serbia. Il problema è che, insomma, cioè è un po' più complicato ed è un po' più costoso. Sarà anche una triangolazione, ma hai un passaggio in più, un mediatore in più, un costo e un margine in più da pagare. Allora, dal nostro bellissimo settore agroalimentare, tra l'altro Radio 24 sarà in diretta dal Cibus come quasi ogni anno, poi parleremo invece della Popolare di Vicenza, un attimo di pausa per aprire la finestra europea. Con chi? Con che cosa? Beh, con il commissario alla concorrenza Vestager, che dopo aver aperto un anno fa, più o meno esatto, dal 15 aprile 2015, la procedura di infrazione nei confronti di Google, oggi è andata avanti e ha detto sostanzialmente, ha formalizzato la Commissione Europea le accuse, accusandolo di abuso di posizione dominante. Rischia una multa da fino a 7 miliardi e mezzo di dollari. Ha inviato a Google uno statement of objections, cioè il primo passo formale per la procedura. Sentiamo su questo la commissaria alla concorrenza, proprio Margaret Vestager. It is just about a year ago I was here to announce that we open an antitrust investigation. Un anno fa ero qui per annunciare l'apertura di un'indagine sulle pratiche portate avanti da Google relative al sistema operativo Android. Le conclusioni preliminari dell'indagine indicano che quelle pratiche sono contrarie al diritto europeo in termini di libera concorrenza. Oggi quindi la Commissione ha inviato a Google una lettera formale di obiezioni, dando la possibilità a Google di rispondere alle nostre preoccupazioni. Abbiamo rilevato che Google ha attuato sugli apparecchi mobili una strategia per proteggere e rafforzare il suo dominio nel campo delle ricerche internet. Google ha imposto condizioni e restrizioni ingiustificate ai produttori di smartphone e tablet Android, così come agli operatori di telefonia mobile. Le società dominanti hanno la responsabilità di non abusare della loro posizione dominante, restringendo la concorrenza. La nostra indagine preliminare indica che Google ha abusato della sua posizione dominante. È difficile quantificare il danno economico, ma il problema è la minor concorrenza e, cosa peggiore, la minore spinta all'innovazione cruciale per la nostra economia. Non è nostro compito difendere le singole società, il nostro compito è di garantire la concorrenza. Se le società abusano della loro posizione dominante, allora c'è un problema. It is our job to make sure that there is competition. If dominance is abused, then we have an issue. Allora, qui accanto a me una voce conosciuta sia perché ha un programma che si occupa proprio di information technology, tecnologia, sia perché è anche un giornalista di questa radio, Enrico Pagliarini, buonasera. Buonasera. 2024 su Radio 24, ma soprattutto il caso, quanto rischia Google? Perché tutti abbiamo in mente Microsoft che paga una multa da 800 milioni di euro e anche Intel 1 miliardo e 200 milioni, ma soprattutto qual è l'accusa? Perché se io leggo... Cioè Google impone di preinstallare sue app come Google Search, sì. E poi è la posizione di Android, ce la chiarisci in un linguaggio semplice? Sì, allora innanzitutto diciamo che la posizione dominante esiste perché il 78% degli smartphone venduti in Italia ad esempio, ma nell'Unione Europea siamo attorno all'80%, hanno preinstallato Android, sono smartphone Android, quindi insomma la posizione è sicuramente dominante. Bisognerà vedere poi se Google ha abusato. È molto semplice, diciamo, tutti i telefoni che hanno Android hanno installata un'applicazione che contiene tutti i servizi di Google, la Search, quindi il motore di ricerca, la mail, Gmail. Cioè anche i nostri, devo sì, dire. Sì, sì, esattamente. Allora, noi abbiamo dei telefoni aziendali che lavorano con Android. Qual è l'accusa della Commissione? La Commissione accusa Google di imporre tutto questo pacchetto ai produttori. Ovviamente se non esiste il Play Store, che è il negozio dal quale noi preleviamo le applicazioni, un telefono non ha molto senso, perché un telefono senza le applicazioni non ha molto senso. È solo un telefono, diciamo. Sì, uno può avere negozi alternativi, però ovviamente il Play Store, che è il negozio di Google, è molto ricco di applicazioni e quindi dà maggior senso a un telefono. Allora la commissione dice: quando tu fai un accordo con un produttore che installa questo negozio, che è poi un'applicazione dove poi installo le applicazioni, tu imponi al produttore di installare anche il motore di ricerca e tutti gli altri servizi. E la commissione, quindi, dice, se ho ben capito, una... Play Store, questo grande negozio virtuale in cui sì, io posso acquistare gratis, quindi può scaricare anche... o pagamento le app, è il cavallo di Troia o la testa d'ariete per dire: ok, se tu vuoi questo e tutti lo vogliono, ti perché è quello più fornito, gli altri servizi ti becchi di Google. Anche gli altri servizi di Google. E questo sarebbe l'abuso di posizione dominante. Cosa può fare Google? Ce lo spieghi dopo il traffico. Focus Economia. Allora, cosa può fare Enrico Pagliarini Google a questo punto? Perché insomma l'accusa, abbiamo capito, di obbligare i produttori e prendersi anche altri servizi, di fatto occupare militarmente il telefonino solo perché loro tutti vogliono il Play Store, quindi, esattamente, e quindi allora, il negozio virtuale più ricco. Ricordiamo che Android è un sistema operativo libero e gratuito, tutti i produttori potrebbero installarlo senza installare obbligatoriamente il Play Store. Ci sono altri produttori che l'hanno fatto, ad esempio Amazon ha un proprio sistema operativo che è derivato da Android ma non ha il Play Store, non ha il negozio di Google. Però appunto Google dice: se ti installi quel negozio dove puoi scaricare le applicazioni, ti devi installare anche il motore di ricerca, che è un po' il nodo della questione, perché ovviamente il business principale di Google è la ricerca, la pubblicità legata alle ricerche, e se io aumento la mia posizione forte sul motore di ricerca grazie alla grande diffusione che ha Android, ovviamente, secondo la commissione, potrei abusare della mia posizione dominante. Beh, se poi si rivelerà un abuso di posizione dominante, quindi un'operazione contro le normative europee, Google dovrebbe o potrebbe, prima diciamo che venga notificata questa infrazione, decidere di rendere molto più libera l'installazione da parte dei produttori delle varie app, quindi diciamo spacchettare questo pacchetto, che invece o lo prendi tutto assieme oppure... Perché la multa rischia di essere molto salata, si parla di 7 miliardi. Poi tra l'altro ricordiamo che c'è un'altra procedura aperta nei confronti di Google, che riguarda invece il business della ricerca in sé, che è un'altra questione, però è un'altra procedura che la Commissione europea ha aperta già da un po' di tempo. Devo dire che sono alcuni anni che si va avanti con questa faccenda, non è ancora stata risolta, quindi ci sono due fronti aperti, e a questi 7 miliardi potrebbero, diciamo, a questi 7 miliardi eventuali potrebbero aggiungersi altri soldi che Google potrebbe pagare. Quindi sono due i fronti aperte. Tra l'altro vedo alcune dichiarazioni di Google, una nota che dice: i nostri accordi con i partner sono interamente su base volontaria. Ho capito, tutti dicono così. Certo, cioè, infatti tu puoi installare solo il sistema operativo, sei liberissimo di farlo. Adesso, però... se mi fate fare un volo un po' pindarico, che non c'entra nulla con Google, anche la difesa degli ex vertici della Popolare di Vicenza è che uno sottoscrive le azioni su base volontaria. Bisogna capire quanto volontaria è e quanto commerciale è, sia il vincolo. Chiunque può usare Android senza Google, provateci, dice Google. Potete scaricare l'intero sistema operativo gratuitamente, modificarlo come volete e costruire un telefono. C'è chi l'ha fatto, e grandi aziende come Amazon non lo è che hanno fatto appunto, grande successo, questi, lo fanno, quindi. Va bene, staremo a vedere se Google verrà a miti consigli, come ci hanno vorrà fatto molto tempo sicuramente, come hanno fatto nel passato Intel e Microsoft. No, Microsoft fu un braccio di ferro e perse, però alla fine ha pagato, perse, nel senso che poi pagò. Grazie Enrico Pagliarini. Ciao. Andiamo sulla borsa. Allora, borsa più 1,14%, Milano che è tra le migliori oggi, forse la migliore in assoluto, più 0,50% Parigi, più 0,70% Francoforte, Londra invariata, il Dow Jones più 0,25%. Faccio notare che è vero che Parigi e Francoforte crescono meno, ma hanno toccato i massimi dell'anno, mentre, come ricordavamo in apertura, Milano è ai massimi da un mese, ma non certo da inizio anno. Debole lusso, Ferragamo meno 2,50, Moncler meno 1,80 e Yoox Net-a-Porter meno 0,50, Luxottica meno 0,30. Poi c'è Atlantia che perde l'1% ed STMicroelectronics perde anch'essa l'1%, Unipulsai meno 0,70. Bene invece le banche, Monte dei Paschi più 6,14, Unicredit più 4,60, CNH più 3,46 o UbiBanca più 3,22 come Mediobanca, Exor più 3%, Pop Emilia Romagna più 3 e poi Saipem più 2%, Intesa più 1,80 come A2A e Fiat Chrysler. Commenteremo con i colleghi di Radio Corriere sulle 24 ore. Andrea Fontana, buonasera. Dopo GR24 i titoli, vi do però a questo punto anche i migliori e i peggiori, così mi porto avanti. Digital Bros più 11,40, Risanamento più 10,40, F più 9,50, mentre tra i peggiori KF meno 6,40, Aeroporto Marconi meno 6,20, ogni tanto decolla, poi riatterra sto aeroporto. Panaria Group meno 5,30, Novatec meno 4%, OVS meno 4%, lì avremo un commentino su OVS perché Coin ha annunciato ieri di aver collocato fuori mercato il 10% del capitale e poi Zucchi meno 3,70%. 349-238-6666 per i vostri sms, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, sms e WhatsApp sempre 349-238-6666. GR24, poi parliamo di borsa, Popolare di Vicenza e flessibilità europea. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio tutti i giorni dalle 14 alle 15:30 il professor Genta e il professor Pardo, tutti convocati, tutti convocati, un'ora e mezza, 90 minuti il tempo di una partita, grande entusiasmo, ottimismo, sempre su Radio 24, la passione si sente. E a tutti i convocati weekend ci sono anch'io, sono Giovanni Capuano, vi aspetto ogni domenica alle 17. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, Andrea Fontana, giornata di borsa priva di grandi spunti, abbiamo raccontato i titoli bancari, tra poco parleremo della Pop Vicenza e di quelle che sono le intenzioni del Fondo Atlante e quindi aderire all'aumento di capitale al livello minimo 10 centesimi di euro per azione. Due titoli però, CNH Industrial, Casino Holland più 3,46% e A2A che si era mossa bene più 1,80%. Sì, CNH sta proseguendo un forte recupero che l'ha portata nelle ultime tre sedute a guadagnare quasi il 14%. L'innesco sono state le parole di Marchione la scorsa settimana, Marchione presidente di CNH Industrial, che non ha escluso, anzi ha auspicato la possibilità di acquisizioni per la società di macchine agricole e di movimentazione terra e di costruzioni, e questo ha portato il mercato a scommettere su possibili operazioni straordinarie per il titolo. Operazioni straordinarie che sono anche il motivo del rialzo di A2A, oggi più 1,8%, perché nel mirino della Multiutility Lombarda è finita un'altra società un'altra utility, quella di Monza e di Como. A2A è pronta a salire al 40% e a lanciare un'offerta su ACSM, Agam, e quindi infilando un'altra operazione straordinaria dopo quella di Linea Group recentemente annunciata. ST Microelectronics perde l'1%, oggi debole il lusso, l'abbiamo detto, però soprattutto perché Intel ha annunciato 12.000, un taglio di 12.000 posti di lavoro a livello mondiale. Per il resto abbiamo già dato prima migliori e peggiori e tutti gli altri titoli. Ringrazio Andrea Fontana, ma noi restiamo in tema di banche più che di borsa, perché non era quotata. Oggi lo ha comunicato la stessa Popolare di Vicenza, il Consiglio di Amministrazione, il Fondo Atlante, che ha preso il posto di Unicredit nel garantire l'aumento di capitale della Popolare di Vicenza da 1,5 miliardi, ha fatto sapere che parteciperà all'aumento di capitale al valore minimo della forchetta, cioè 0,1 euro per azione, 10 centesimi di euro per azione, un'azione che valeva nell'estate del 2014 62 euro e a questo fu collocata. Poi è scesa a 48 nell'aprile 2015 a 6,3 euro nel 2016. Facevo notare, questo vuol dire che i risparmiatori, gli azionisti della propria Vicenza perderebbero il 99,8% del valore se ce l'hanno a 62 euro. Faccio notare che la cosa che secondo me balza più agli occhi è che se questo andrà in porto, cioè se questo sarà il valore dell'aumento di capitale, l'intera banca, cioè i suoi 700 sportelli, 5.500 dipendenti, 1.300.000 clienti, varrà meno di quanto hanno preso nel 2015 i consiglieri e i sindaci che hanno poco sindacato e poco consigliato, visto che la banca è stata distrutta. Per non parlare appunto delle buone uscite date ai vecchi vertici, Sorato e Zonini. E partiamo proprio da lì, facciamo un tuffo, diciamo, nel passato, al 2015, se non ricordo male, quando l'11 aprile inizia il tracollo, e cioè il prezzo dell'azione viene portato da 62,5 euro a 48 euro, senza che nell'anno in mezzo i risparmiatori che avevano capito che c'erano dei problemi potessero vendere le azioni a 62 euro, perché non erano quotate e quindi bisognava trovare un compratore, e stranamente andavano allo sportello e questo compratore non c'era mai. Siamo all'11 aprile del 2015 e già l'azione viene, tra virgolette, brutalizzata, perde il 40% del suo valore. A nessuno fa piacere quando le azioni vengono meno, fa piacere sempre quando vengono di più, però bisogna adeguarsi alle regole, e le regole nuove di bilancio hanno portato poi a questa conclusione finale. Per la negoziabilità delle azioni avete sentito che c'è stata qualche lamentela, che io capisco non bene, benissimo, anzi è una delle cose che mi ha angustiato di più, perché il valore può andare su, può andare giù, e non è scritto sul Vangelo che bisogna sempre che salga. Però la negoziabilità è una cosa importante, perché ci sono di quelli che hanno delle necessità, dei problemi di famiglia, eccetera. E quindi non riuscire, per una disposizione che è uscita dalla Banca Centrale, di fare come nel passato, che ha sempre dato grande soddisfazione alla banca e ai soci, era un dispiacere in primis del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, ma posso assicurarvi anche del Direttore Generale e di tutti i dipendenti. Però queste sono le regole, e le regole vanno rispettate, e noi le abbiamo rispettate. Forse anche i soci stessi non hanno capito che i soldi non ne hanno persi. Se noi guardiamo il passato, il presente e anche le ultime azioni, il socio non ha perso. La riduzione del nostro valore è stata sicuramente minore rispetto alla variazione del valore delle altre popolari quotate o del sistema bancario. Questo è il fatto che non essendo quotati, ovviamente gli scambi che si sono realizzati fino al 2013, fin tanto che avevamo il fondo acquisto azioni proprie, ci consentivano di scambiare più valori. Ora, in futuro, in prospettiva, è inevitabile che con questa piattaforma di scambio, con questo regolamento che andremo a proporre, il prezzo lo farà sicuramente la piattaforma, lo farà il mercato, non lo farà più la banca. Avete sentito l'ex presidente Gianni Zonin e l'ex amministratore delegato Samuele Sorato, che si sono presi per uscire 1 milione di euro Zonin e 4.600.000 euro Sorato, che è uscito prima, sì, l'abbiamo portata da 62,5 euro a 48 perché ce l'ha chiesto la BCE, sono le nuove regole europee, e sapevano che non valevano neanche quei soldi le azioni, ma neanche la metà, neanche un decimo di quei soldi, visto che adesso sono a 0,1. E Samuele Sorato abbiamo perso meno di altre banche popolari, io devo stare tranquillo perché sennò oggi sono per la querela. Detto ciò, a me dispiace, lo dico a chi mi sta scrivendo, per i figli di Zonin che fanno attività vitivinicola, perché le colpe dei padri non devono ricadere sui figli, a meno che non siano chiaramente, e non c'è nessun elemento per pensare questo, complici. Però anche i padri ci devono pensare prima ai figli, perché poi quando scoppiano ste magagne e distruggi 5 miliardi di euro di risparmi in un territorio così circoscritto come è quello, diciamo, della provincia vicentina, allora ci potevi pensare prima, perché ci sono anche i figli dei risparmiatori, i figli degli azionisti, non è che ci sono solo i figli di uno e non contano i figli dell'altro, sono tutti scarafoni belli a mamma loro, e allora pensiamo anche ai figli di chi ha messo i risparmi ahí dentro, magari in Azione della Popolare di Vicenza. Incredibile, Sorato che dice abbiamo perso meno di altro, Zonin che dice comunque adesso sono negoziabili, bisognerebbe riprendere tutti questi file, questi audio. Fabio Pavesi, buonasera. Buonasera, infatti se non fosse così drammatica sentire a distanza di un anno queste parole ha del grottesco, ma veramente del grottesco, del surreale. Perché eravamo ad aprile del 2015, eravamo non neanche un anno fa, cioè queste persone hanno negato la realtà fino all'ultimo minuto possibile, sapendo che continuavano a spacciare, io la chiamo droga a questo punto, perché quel titolo non poteva valere quei soldi, ma neanche 48, tant'è che il diritto di recesso è stato stabilito a 6 euro, cioè da 48. Chi voleva uscire è potuto uscire con 6 euro. E Zonin, sì, ma sono usciti pochissimi, è uscito credo lo 0,1 del capitale a 6 euro, cioè voglio dire, ovviamente portando a casa 90 di perdite. Cioè, trovo veramente surreale queste dichiarazioni, ascoltate, hai fatto bene a mandarle in onda, perché veramente, cioè, certe dichiarazioni di solo di 12 mesi fa rispetto a quanto sta accadendo hanno veramente la cifra dell'impudicizia, io la chiamo, perché tu non puoi comportarti in questo modo, anche dire che hai perso meno. Loro sono andati avanti con un ritornello a dire che non essendo quotate non avevano subito gli scrolloni di borsa dal 2011 in poi delle altre banche, quasi a dire siamo più solidi, ma per forza non sei quotato, puoi fare quello che vuoi. Sì, poi ci sono tante anche altre figure, perché io citavo, a parte che l'attuale numero uno, per carità, è però ha preso, dov'è che ce l'ho, 800.000 euro d'ingresso, Francesco Iorio. Francesco Iorio, 1.800.000 euro, abbi pazienza, d'ingresso, solo bonus d'ingresso, solo d'ingresso. E poi 2.700.000, tutto bene perché non ha nessuna responsabilità, però, intanto risani la banca e poi ti prenderai il bonus a casa mia. Comunque, detto ciò, poi ci servono altre figure da far emergere, ne cito una su tutte, il professore della Bocconi, l'abbiamo cercato, non vuole parlare. Si chiama Mauro Bini, insegna alla Bocconi ed era il famoso esperto indipendente, quello che dovrebbe dire da fuori se il valore dell'azione è appropriato o no. Questo continua a dire che lui ha valutato il valore dell'azione solo sulla base dei dati che forniva la banca, non spettava a me verificarne la veridicità. Questo può anche essere, ma allora dimettiti da consigliere indipendente, perché per fare così prendo qualunque ragazzo dell'ultimo anno della Bocconi, cioè dei suoi studenti, e gli facciamo fare la valutazione dell'azione. Se questo è il suo ruolo, mica c'è bisogno di un professorone della Bocconi. Comunque, traffico, perché sto incavolato nero. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta Focus Economia. Comunque, guardiamo al futuro, per quanto plumbeo. Fabio Pavesi, cosa vuol dire che, insomma, da come capisco io, Atlante diventerà l'azionista di riferimento della Popolare di Vicenza, e cosa vuol dire questo per Veneto Banca, che tra poco si appresta a chiedere 1 miliardo di euro di aumento di capitale? Beh, già avevano indicato questa forchetta di prezzo, anche qui surreale, da 0,1 a 3 euro, c'è un abisso tra le due proposte. Quando lasci forchette di prezzo così ampie vuol dire che non hai veramente idea di quanto vale la banca. Alla fine il valore ha dato Atlante, che è il nuovo fondo delle banche che deve appunto sostenere le ricapitalizzazioni di Vicenza e di Veneto, che ha detto io compro a 0,1 il livello minimo, ovviamente, perché il fondo è partecipato con soldi di altre banche e vuole spendere il meno possibile, e la banca viene comprata veramente con un tozzo di pane, l'affare lo faranno ovviamente i compratori, cioè giustamente, perché dicono io entro in quella banca solo se ha un senso. E il problema è che questa valutazione così bassa avrà impatto anche su Veneto, che è la candidata numero due a fare l'aumento, e ovviamente essendo una consorella, essendo a 50 chilometri, credo che quella valutazione tirerà giù anche Veneto Banca inevitabilmente. Allora, vedo qualche ascoltatore che, come sempre in questi casi, dice, capitò anche con Parmalat, ma voi dove eravate? No, come non radio? È vero. No, guardi, sole... la risposta, a parte che noi l'abbiamo scritto, abbiamo fatto puntate sulla vicenda, ma io voglio dire un'altra cosa, abbiate pazienza. Ma se il professor Bini, che è il consigliere indipendente, no? L'esperto indipendente, nulla vede, se i sindaci nulla vedono, se le società di revisione nulla vedono, se perfino la Banca d'Italia vede poco, perché tutto quanto, come diceva Zonin nell'intervista, crolla nel momento in cui gli ispettori di Mario Draghi della BCE gli dicono: oh, devi rettificare tutto perché queste prestiti non le riavrai più indietro, devi metterle come perdite. Adesso volete, noi dovevamo vedere quello che non vedeva la Banca d'Italia, i revisori contabili, i sindaci, nulla, che non vedevano neanche gli azionisti. Abbiate pazienza, l'autocritica la facciamo, ma non su questo. Grazie a Fabio Pavesi, perché devo trasferirmi adesso a Bruxelles. Dove c'è il nostro Sergio Nava, che sta realizzando varie interviste in Commissione Europea, ma quella più importante di oggi riguarda il commissario, o meglio vicepresidente della Commissione Europea, che ha anche la delega all'euro, e chiaramente Sergio Nava, mi senti? Buonasera innanzitutto. Sì, buonasera Sebastiano. E mi riferisco a Valdis Dombrovskis, a cui tu hai chiesto in primo luogo, insomma, quadro macroeconomico, ma anche le possibilità che ha l'Italia di ottenere un po' più di flessibilità, Sergio. Sì, perché ricordiamo, maggio sarà un mese cruciale, inizio maggio ci saranno le previsioni economiche primaverili della Commissione Europea e poi soprattutto intorno al 18 maggio la Commissione Europea dovrà dare il giudizio sul DEF, sulla legge di stabilità e anche e soprattutto sulla flessibilità che l'Italia chiede per quest'anno e forse anche, chissà, per l'anno prossimo. Però per cominciare abbiamo chiesto a Valdis Dombrovskis, fresco esduce degli incontri dell'FMI negli Stati Uniti, se rivedrà al ribasso le previsioni di crescita appunto a inizio maggio nell'Eurozona. Sentiamo. As regards the IMF spring meetings, gli incontri dell'FMI si sono svolti in un contesto di revisione al ribasso dell'economia mondiale. Condividiamo ampiamente il giudizio dell'FMI sull'economia dell'Eurozona, soprattutto per quanto riguarda i rischi derivanti dal rallentamento delle economie emergenti, come pure dalla volatilità sui mercati finanziari. Il tutto parzialmente controbilanciato dal ribasso dei prezzi del petrolio, di cui beneficerà l'economia europea. La Commissione europea aggiornerà le sue previsioni economiche a inizio maggio. Considereremo i rischi al ribasso, ma non ci aspettiamo cambiamenti drastici nelle nostre previsioni. Non posso anticipare nulla, ma i rischi sono al ribasso. I cannot now anticipate the outcome of the forecast. It's still in the preparation, but as I said, the risks appear to be on the downside. Si è sentito praticamente, ha anticipato Dombrovskis che ci saranno dei ritocchi a ribasso nelle previsioni economiche, ma il vero punto poi cruciale dell'intervista è la richiesta di flessibilità italiana e l'analisi del nostro DEF. Allora, chiaramente non si è potuto sbottonare più di tanto perché l'analisi è in corso e lo sapremo tutto a metà maggio, ma sentiamo quello che ci ha detto, perché insomma Dombrovskis mantiene la sua ottica rigorista e è considerato comunque uno dei falchi nella Commissione. Sentiamo. We are currently assessing Italy's stability program or DEF. Stiamo analizzando il DEF italiano. Aspettiamo il programma nazionale di riforme. Prenderemo delle decisioni quando avremo la verifica dei dati fiscali da parte di Eurostat il 21 aprile e quando avremo definito le previsioni economiche di primavera a inizio maggio. La nostra analisi mostra che il budget italiano è a rischio di conformità col patto di stabilità. Quindi dovremo valutare il DEF, il livello del debito e la richiesta italiana di flessibilità su migranti, riforme strutturali e investimenti. Sulla richiesta italiana di flessibilità, sappiamo che la quantità totale che possiamo concedere è dello 0,75% del PIL. L'Italia ne ha già usata nel 2015 lo 0,4%, quindi ne resta teoricamente uno 0,35% concedibile, a patto che tutte le condizioni vengano rispettate. Sta all'Italia decidere se intende usare la flessibilità quest'anno o dividerla tra il 2016 e il 2017. Quindi, in primis, l'Italia dovrà giustificare questa deviazione temporanea dagli obiettivi e dovrà dimostrare come intende gradualmente ridurre il deficit nei prossimi anni. Secondo le decisioni prese dall'Eurogruppo, lo 0,75% del PIL è il tetto massimo della flessibilità concedibile, a patto di vedere aggiustamenti strutturali verso l'obiettivo di medio termine. Voglio infine ricordare come l'Italia sia il paese che maggiormente beneficia della flessibilità. Biggest benefiter from this flexibility communication. non dimentichiamo anche che tra gli squilibri macroeconomici denunciati dalla Commissione dell'Eurogruppo c'è l'alto debito, abbiamo parlato anche di questo con Dombrovskis, che chiude sulla proposta italiana di Eurobond per l'immigrazione. Sentiamo allora cosa ci ha detto. We had been assessing Italy's compliance with the debt rule also last year. Abbiamo analizzato il rispetto delle norme sul debito da parte dell'Italia lo scorso anno. Le nostre conclusioni sono state che, date alcune circostanze come la bassa inflazione nell'eurozona, non apriremo una procedura straordinaria sul debito, ma questo è un esame che si ripete ogni anno, quindi anche quest'anno faremo una valutazione del rispetto dei criteri di debito. La Commissione europea sta applicando il patto di stabilità e crescita e questo è contemplato nel trattato con l'avallo di tutti i membri dell'Unione. La Commissione cerca di applicare queste norme con intelligenza ed è stato in questo modo che lo scorso anno siamo giunti a stabilire le regole sul miglior utilizzo della flessibilità che sono contenute nella normativa sulla stabilità. La flessibilità esiste e la applichiamo anche nel caso dell'Italia. Non ci troviamo in un periodo di austerità. La situazione della politica di bilancio, secondo le previsioni invernali della Commissione, è largamente neutrale e più recentemente la BCE ha indicato che attualmente la zona euro ha una politica di bilancio leggermente espansiva. Per quel che riguarda la proposta italiana degli eurobond per i migranti, la stiamo analizzando e prima di commentarla più dettagliatamente abbiamo bisogno di studiarla meglio. We need to analyze this proposal before going into more detailed comments. Sì, questo è già qualcosa, vista la bocciatura che è arrivata ieri dalla Germania sugli eurobond. Faccio notare, mentre ringrazio Sergio Nava in collegamento con noi da Bruxelles, dove appunto ha realizzato l'intervista al vicepresidente e responsabile per l'euro Valdis Dombrovskis, che è lettone, quindi abbastanza rigoroso anche per questo. Dicevo che oggi c'è una solidarietà, un appoggio all'Italia dal vice cancelliere tedesco, lo ricordavamo in apertura, e mi riferisco a Manfred Weber, che ha detto: beh, insomma, l'Italia va nella direzione giusta, l'Europa deve essere solidale con l'Italia, il problema non è la Banca Centrale Europea o Mario Draghi, ma è l'eccesso di austerità. Lo ha detto il vice cancelliere tedesco Sigmar Gabriel, che è anche presidente, se non ricordo male, dei Popolari Europei. Grazie a Sergio Nava ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, che torna domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.